Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali e dalla solidarietà ai servizi. Prosegue la nostra panoramica settimanale sull'impegno del mondo dei consumi per l'emergenza coronavirus, non solo la grande distribuzione in prima linea, come abbiamo sottolineato domenica scorsa, come continuiamo a raccontarvi nei giornali radio, ma anche l'ospitalità, la cosmetica, la tecnologia, come dimostrano le storie che stiamo per raccontarvi. Prima però la riflessione con cui abbiamo deciso di aprire le puntate di queste settimane. Questa sera parliamo della nuova dimensione domestica protagonista delle nostre vite. Il consumautore. Francesco Morace, ben ritrovato. Oggi parliamo di questa nuova dimensione della domesticità che tutti noi stiamo riscoprendo. In che senso? Nel senso che l'essere in casa permanentemente, tutta la famiglia, implica un'organizzazione completamente nuova, quindi anche solo dal punto di vista del liberare gli spazi. In molte famiglie c'è il papà, la mamma che entrambi lavorano a distanza, ci sono i figli che in alcuni momenti devono seguire le lezioni, e quindi anche solo in termini di stanze adibite a ciascuno cambia completamente la struttura. E poi ci sono anche famiglie particolarmente organizzate che hanno ormai definito un timetable quotidiano, quindi turni un po', diciamo, da caserma in termini di dare ciascuno il suo contributo, e in molti casi c'è anche una riscoperta della responsabilità minima del quotidiano. Cambiano le priorità, cambia la scala di priorità, lo stiamo tutti drammaticamente vivendo, cambiano anche le passioni in qualche modo. Sì, in particolare poi, visto ci sono comunque tante persone che vivono da sole, no? In Italia ormai quasi un terzo degli italiani vive da solo, e allora bisogna riempire anche il tempo per chi magari non lavora o lavora meno, e allora si riscoprono le passioni in questo momento, soprattutto le passioni femminili. Ecco, devo dire che in tutto questo cambiamento, come sempre, il mondo femminile è stato il primo a reagire, e quindi lo yoga, il seguire dei corsi non tanto e non solo di cucina, come si dice, ma anche di scrittura, di lettura, di poesia addirittura, quindi lavorare sulle passioni che normalmente non si riesce a seguire perché non si ha il tempo per farlo. Quindi si cerca di ottimizzare un'occasione drammatica anche per crescere. La tecnologia si dimostra sempre di più come elemento abilitante, quindi in tutto il suo aspetto positivo, anche delle relazioni, delle connessioni intergenerazionali. Questa è probabilmente la rivoluzione maggiore in Italia. Finalmente assistiamo a una scomparsa della guerra quasi tra i tecnofili e i tecnofobi, quindi chi sosteneva che l'unico modo possibile per essere avanzati fosse il digitale, chi invece lo rifiutava completamente. Oggi la tecnologia, come hai detto tu, è abilitante, quindi è necessaria, ma anche con quell'intelligenza e con quella saggezza che ci fa capire che poi è tanto bello il contatto fisico e tanto bello anche il mondo offline. Ecco, quindi finalmente possiamo parlare di on-life. Grande distribuzione in prima linea, dicevamo in questi giorni l'ipotesi di una stretta sugli orari nel weekend ha prodotto un assalto ingiustificato ai supermercati, lo ripetiamo, gli approvvigionamenti alimentari non verranno a mancare, comportiamoci responsabilmente, la spesa va affidata ad una sola persona per nucleo familiare, una al massimo due volte a settimana. Le chiusure di oggi o le limitazioni di questi giorni di alcune insegne, vedi Coop, vedi Esselunga, sono temporanee per permettere al personale di riposare un po'. In questo scenario vi raccontiamo filaindiana.it, un sito che sarà presto un'app messo in piedi da un gruppo di sviluppatori italiani che stima il tempo di attesa per entrare nei supermercati e ci aiuta a monitorare in tempo reale il numero di persone in fila, così da fare la spesa in quelli meno affollati. Un servizio utile a tutti in questa emergenza, per ora solo a Milano, presto in altre città d'Italia e forse anche del mondo. Fulvio Bambusi è uno dei fondatori. Quest'idea è nata da un gruppo di amici del Politecnico di Milano. Siamo partiti dall'osservazione del fatto che in questo momento ci sono alcuni supermercati che sono ridicolmente pieni, altri che sono inspiegabilmente vuoti. E questo è un enorme potenziale fonte di contagio. È una cosa assurda che la disinformazione, o comunque la scelta non informata di dove andare a fare la spesa, abbia un impatto sulla salute pubblica. Quindi quello che abbiamo fatto è stato sviluppare un sito, adesso c'è l'applicazione che è in rilascio, che serve esattamente per colmare questa asimmetria informativa. Ci siamo messi e abbiamo sviluppato questo servizio che si basa sugli open data e sulla partecipazione attiva dei cittadini. Quello che noi facciamo è usare le segnalazioni dei cittadini per stimare il tempo di attesa che si incontrerà in un supermercato. In questo senso il valore che stiamo perseguendo è il fatto che la cittadinanza attiva e la partecipazione di tutti noi può veramente fare la differenza. Quindi abbiamo deciso di fare un'applicazione che è basata e conta sulla partecipazione di tutti quanti per migliorarsi e fornire dei dati sempre più accurati. Quindi funziona con la geolocalizzazione, io mi registro, posso fornire le informazioni che sono poi utili a tutta la comunità e posso consultare il sito per capire dove andare. Esattamente, nel momento in cui sei in coda al supermercato puoi aprire l'applicazione o il sito, segnalare che sei in coda in quel punto, in quel momento, e dire quante persone ci sono lì con te e da quanto tempo sei in fila. Quei dati vengono poi usati per fornire la stima a tutti gli altri che consultano l'applicazione. Fulvio, ricordaci tutto questo Magic Team, chi siete? Allora, io, poi c'è Pietro Avolio, Francesco Bertani, Andrea Maioli, Andrea Torrone, Nicolò Alabastro e Tommaso Ballardini. Che riscontro state avendo? Stiamo avendo un riscontro estremamente positivo, un successo veramente che sarebbe, diciamo, falso dire che ci aspettavamo. Però siamo molto contenti di tutto questo, non solo perché è una certificazione del fatto che quello che abbiamo fatto sta avendo un impatto positivo sulla quotidianità, sulla vita delle persone, ma anche perché più persone la usano, più migliora il prodotto, nel senso che più persone mandano le loro segnalazioni dei supermercati, più accurata è la stima che poi salta fuori. Quindi è un circolo virtuoso che si autoalimenta, questa partecipazione e visibilità delle persone. Adesso i prossimi piani sono, siccome sta crescendo molto molto velocemente, espanderci alle altre grandi città italiane, perché in questo momento siamo partiti con il primo progetto su Milano e ci espanderemo entro settimana prossima in Italia, e stiamo già pensando a quali sono gli accorgimenti da fare per scalare a livello internazionale, perché ci sono un sacco di persone, tipicamente immigrati italiani all'estero, ma anche nativi di Francia, Svizzera, Israele, che ci stanno chiedendo di espandere il prodotto anche nelle loro zone. È un problema veramente che purtroppo in questo particolare momento storico affligge tutti quanti. Moltissime le iniziative di solidarietà messe in piedi da piccole e grandi realtà, dalle donazioni milionarie alle raccolte fondi benefiche fino ai contenuti, ai servizi gratuiti. Molti li trovate sulla piattaforma Solidarietà Digitale del Ministero per l'Innovazione. Molte aziende della filiera della moda hanno convertito la propria produzione per mascherine, camici e calzari monouso. Anche la filiera cosmetica si è messa a disposizione per la produzione di gel igienizzanti. Il gruppo Davines di Parma, presenza in oltre 90 paesi nel mondo, ne ha prodotti oltre 100.000 pezzi da distribuire in case di riposo, sedi della Croce Rossa, comunità di accoglienza per immigrati e associazioni benefiche. Il presidente di Davines, Davide Bollati. Decine di anni fa, durante l'infezione suina in Asia, abbiamo affrontato il tema della sanitizzazione dei nostri saloni e centri estetici. Da allora avevamo questa formula e siamo riusciti a mettere in produzione rapidissimamente. Abbiamo già prodotto circa 50.000 pezzi, adesso ne abbiamo una previsione ancora di prossimi 100.000 nei prossimi giorni, per tutta una serie di enti che ne hanno bisogno: aziende, trasporti, forum solidarietà, protezione civile, case per anziani, onlus vari, aziende ospedaliera, assistenze domiciliari. Insomma, abbiamo avuto tutta una serie di richieste, che tra l'altro dal momento in cui hanno chiuso i saloni abbiamo dirottato completamente a tutti questi enti. Voi siete una B Corp, quindi un'azienda che si avvale del business per generare un impatto positivo sulle persone e sull'ambiente, è una fattispecie societaria che tra l'altro prima in Europa l'Italia ha riconosciuto. Ecco, che cosa significa essere una B Corp in questo periodo? Significa ribadire un principio che per tutte le B Corp è molto chiaro, che è quello della interdipendenza. C'è una forte interdipendenza fra tutti i fenomeni che stiamo vivendo, che si accavallano quasi, no? Si passa da una crisi sociale a una crisi ambientale, a una crisi economica, adesso abbiamo la crisi sanitaria. Possiamo ricondurre tutta questa serie di crisi a dei principi, diciamo, generali, che sono quelli del come la nostra specie abita il mondo, quindi come lo abitiamo, come ci comportiamo nel mondo, e anche a livello quindi di economia le B Corp credono che ci sia una modalità di armonizzare uno sviluppo economico e sostenibile riconoscendo il principio dell'interdipendenza, tutta una serie di fattori, e del fatto che si abita tutti nella stessa casa e che ogni elemento impatta su altro. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, restate con noi perché abbiamo tante altre storie da raccontarvi e riflessioni da proporvi tra pochissimo. One Express, il pallet espresso. Vi presenta Essere e Avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, vi stiamo raccontando come il mondo dei consumi si stia impegnando in prima linea per l'emergenza coronavirus. Anche un colosso dell'ospitalità come Airbnb si è messo al servizio del personale sanitario che dovrà cambiare città, neoassunti in primis per l'emergenza, offrendo a medici e infermieri l'alloggio e ai proprietari delle abitazioni la copertura delle spese. Ci spiega tutto Giacomo Trovato, country manager di Airbnb Italia. Siamo in una situazione particolare in cui i flussi turistici chiaramente hanno avuto una battuta d'arresto in questo momento. Tanti dei nostri host hanno le case vuote, non utilizzate, e quindi è stata una nostra idea, ma anche un'idea dei nostri host, di rendere disponibili queste case per un'esigenza molto reale, cioè quella di medici che devono andare in trasferta in un'altra città e devono quindi avere un alloggio da trovare in tempi molto rapidi. È stata un'esigenza per cui abbiamo collaborato con tutti i nostri piccoli proprietari di casa, ma anche ad esempio con l'associazione Property Manager Italia e il suo presidente Stefano Bettanin, che ci ha messo a disposizione le prime 40 case. E vale su tutto il territorio italiano? Sì, vale su tutto il territorio italiano, e l'offerta può essere visibile nella pagina che abbiamo creato, airbnb.it/medici e infermieri, dove chi ha una casa può aderire al programma e chi è un rappresentante, insomma, del personale sanitario, un medico, un infermiere, può fare richiesta di una casa. L'associazione Ospitami ci sta aiutando a gestire proprio il processo di prenotazione, quindi un richiedente, un medico, un infermiere, da qualunque parte d'Italia chiami, avrà qualcuno che gestisce la sua richiesta e gli suggerisce delle case che si trovino vicino all'ospedale in cui deve operare. Ecco, voi vi occupate, se non ho capito male, delle spese vive per gli host, quindi è una sorta di indennizzo, così, di contributo? Sì, è corretto. Gli host abbassano il prezzo del soggiorno a di fatto soltanto le spese che sostengono, e Airbnb copre queste spese. Dall'annullamento dei viaggi o degli eventi prenotati alla sospensione delle rate di mutui e prestiti fino al rimborso delle rette e delle spese per la scuola e per le attività sportive, sono molte le informazioni di cui hanno bisogno i consumatori in questo momento, come testimonia il servizio di consulenza gratuita messo in piedi da Altro Consumo. Ivo Tarantino. Dal primo giorno dell'emergenza abbiamo deciso di fare due cose: aprire l'informazione relativa al coronavirus e a tutti i dubbi dei cittadini su tutti gli aspetti legati al coronavirus, dalla salute ai rimborsi, alle tasse, ai mutui. Abbiamo creato un hub sul nostro sito, che è aperto a tutti, sul quale trovare di giorno in giorno come si evolve lo scenario, le informazioni. E poi dalla scorsa settimana abbiamo fatto un passo ulteriore, abbiamo aperto il nostro servizio di consulenza, quindi i nostri consulenti legali rispondono a tutti i cittadini italiani. Lo abbiamo strutturato in una maniera che possa aiutare i cittadini a trovare le informazioni e noi a rispondere, ovvero abbiamo creato una sezione del nostro sito sulla quale i cittadini possono andare, dirci a quale argomento sono interessati, da un annullamento dei viaggi, come dicevamo, alla dilazione delle tasse o al rinvio del pagamento del mutuo, ci lasciano la loro mail, il loro numero di telefono e nel giro di 24-36 ore il nostro consulente li contatterà telefonicamente. Abbiamo deciso di fare così perché è un momento nel quale è anche importante sentire la voce di una persona, essere rassicurati, per dare tutte le informazioni che sono disponibili oggi. E siccome ci troviamo in una situazione nella quale lo scenario evolve di giorno in giorno, ci sono nuovi provvedimenti anche per seguirli in futuro. Quali sono le informazioni, le richieste più frequenti che vi stanno arrivando? Riguardano aspetti della quotidianità, diciamo dagli spostamenti, quindi i viaggi, ma anche la libertà di movimento in questo momento, alle tematiche poi di natura, diciamo così, più fiscale. In questo momento c'è una grande attenzione, sappiamo che proprio nei giorni scorsi ci sono stati interventi del governo su aspetti che riguardano poi la sopravvivenza di tante imprese, di tanti lavoratori, di tante famiglie, e tutte queste misure che noi analizziamo per l'appunto quotidianamente ci vengono richieste. Ovviamente monitoriamo il tutto di giorno in giorno e aggiungiamo le informazioni. Che cosa ha significato per voi coordinare e immagino anche implementare l'attività dei vostri consulenti in tempo reale, visto la fluidità della situazione? Per Altro Consumo, e lo dico con orgoglio, è stato uno sforzo eccezionale. Ci tengo a sottolinearlo, noi eravamo già tutti in smart working dalla seconda settimana dell'emergenza, e quindi coordinare 80 consulenti legali quotidianamente, formandoli e aggiornandoli sull'evoluzione, è uno sforzo enorme per il nostro servizio di consulenza, ma ritenevamo che fosse fondamentale in questo momento offrire il massimo supporto ai cittadini e anche quella rassicurazione, ripeto, di una voce che ti ascolta e che ti dà le risposte e magari ti dice anche che quell'informazione in questo momento non c'è, ma fra qualche settimana, quando ci sarà, ritorneremo da te e ti daremo una mano. Utilizzo dei dati e servizi digitali, solidarietà ed economia della fiducia, che cosa ci sta insegnando l'emergenza? Lo abbiamo chiesto a Luciano Canova, economista e divulgatore, docente di economia comportamentale alla Scuola Enrico Mattei. Il suo ultimo libro è Il metro della felicità. Devo dire che finalmente, guardiamola in positivo, è venuta meno una delle critiche che venivano fatte alla tecnologia, in funzione anche molto distopica, di annichilimento delle relazioni umane. Inviterei chiunque a dire se in questi giorni i social, ma anche appunto tutti i servizi di delivery, non hanno garantito alla nostra vita di trovare quel significato che disperatamente in questa fase di incertezza stiamo cercando. Per cui sicuramente è venuta fuori tutta la funzione abilitante della tecnologia, e questo penso sia qualcosa di cui possiamo fare tesoro. Ovviamente nella stessa misura stanno venendo fuori anche tante questioni connesse alle forme di comunanza civile che ciascuno di noi condivide, quindi si sta anche mettendo in discussione la democrazia, valga su tutti l'idea del tracciamento digitale che trova resistenza in Italia perché violerebbe la privacy. Quindi queste app che in teoria dovrebbero aiutare a ridurre questo maledetto R0 e quindi a ridurre il contagio, trovano la resistenza di persone che vogliono tutelare la libertà o sentono l'invasione dello Stato troppo nella direzione di un regime autoritario. Io personalmente, tra l'altro, dico che questo non è il caso, che forse questa è proprio un'emergenza in cui invece dobbiamo fidarci. Direi che forse la parola chiave del domani dovrebbe essere fiducia in un nuovo mondo. Perché stiamo vedendo quanto i dati ci possano aiutare, non solo per il tracciamento, ma anche per la previsione della curva epidemica e per una serie di altre ragioni. In questo caso, l'utilizzo ragionato dei dati e l'intelligenza artificiale possono essere validi alleati in questa che ormai tutti definiscono una battaglia. Eh sì, tra l'altro tutti sempre più vedo che associano la sfida che stiamo combattendo per trovare una similitudine alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi direi che veramente i dati e la tecnologia per forza sono la nostra arma, sono il nostro più fidato alleato. Torno sul discorso della fiducia perché di pari passo con l'uso del dato e della tecnologia, tra l'altro è dalla tecnologia e dalla scienza che possiamo aspettarci in tempi, speriamo il più possibile brevi, l'individuazione, la produzione e la distribuzione di un vaccino. Però è appunto di pari passo appunto con l'utilizzo della tecnologia dobbiamo appunto sviluppare una nostra attitudine, un nostro atteggiamento positivo nel confronto della condivisione. Forse una sfida che abbiamo personalmente è proprio questa. Penso che la nostra modalità di interagire con gli altri, che sempre più diventa digitale, deve fondarsi in chiave positiva sulla parola che dicevo prima, la fiducia. Credo che diventerà un asset molto importante per fare sì che appunto questo enorme sforzo collaborativo che è richiesto a tutti abbia successo. Si deve andare al di là della propria individualità e trovare appunto una dimensione di comunità che per forza deve basarsi sulla relazione di fiducia tra tutti noi. In chiave economica questa riflessione come sta emergendo? Politiche comunitarie, misure di sostegno comuni? L'economia è una scienza molto fluida in questa fase, nel senso che appunto ci sono tanti studi, tante proiezioni e ovviamente tutte parlano di un crollo molto importante sul breve dell'attività economica e anche però con la famosa dinamica V della possibilità, una volta usciti da questa emergenza, di una ripresa rapida, a patto che, e questo appunto risponde alla tua domanda. È uno sforzo di cooperazione molto importante. Credo che questo sia un esercizio di tenuta dell'Unione Europea che spero saremo in grado di vincere. Devo dire che, volendola vedere in positivo, vedo comunque che la Commissione Europea, al di là di tutte le difficoltà, sta cercando di muoversi nella giusta direzione. Ho apprezzato molto il messaggio della von der Leyen che spinge alla cooperazione. È un momento molto keynesiano, un aggettivo che ci tengo ad utilizzare, in cui veramente serve che lo Stato e gli Stati insieme si coordinino e coordinino il loro intervento per tenere su l'economia, che indubbiamente va incontro a una fase di gravissima crisi. E anche a livello di territorio l'impegno delle aziende, non solo in termini di CSR, ma proprio di responsabilizzazione verso il territorio e anche di filiera, forse con le riflessioni sul reshoring e sul fatto di rimettere in piedi tutta la filiera delle produzioni nei paesi. Giustamente ieri il professor Zamagni parlava del fatto che lo Stato da solo non basterà, serve anche molto il terzo settore e a proposito di quello che dicevi, è vero che serve appunto un enorme sforzo individuale e collettivo anche appunto a livello locale per ristabilire la catena produttiva. E di nuovo, insisto, la parola fiducia è fondamentale, bisogna avere fiducia nella possibilità che ci sia questa rete di protezione che sostanzialmente garantisca il sostenimento delle attività. Quindi abbiamo di fronte tempi molto difficili che vanno però affrontati il più possibile, so che è difficile, ma con un atteggiamento positivo, che non vuol dire ottimista, ma vuol dire positivo, cioè di costruzione e di operatività, perché solo così se ne esce, solo così possiamo poi immaginare un mondo nuovo che possa risorgere da questa gravissima crisi. Si chiude qui questa puntata di Essere Avere. State a casa, siate responsabili per voi e per gli altri. Stay safe and stay strong. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.